nuovamente in diretta, ufficialmente parte la rubrica In Mostra dedicata a un grande dell'arte. Sto parlando di Domenico Palladino, già aperta dal 1 febbraio ed è relativa al 50° anniversario di Arte Fiera. L'artista, come ho detto, è di fama internazionale, torna dopo molti anni ad esporre a Bologna con dipinti, sculture di grandi dimensioni in un luogo particolarmente suggestivo che esalta e celebra una poetica creativa in intersezione con la sede espositiva in maniera particolarmente intensa e dialogica. Perché vi ho detto torniamo sulla terra e non l'ho detto certo in senso spregiativo? Perché Mimmo Palladino rappresenta una forza molto intensa, una creatività che passa oltre l'avanguardia, è la transavanguardia. Uno degli esponenti, Mimmo Palladino, nativo della provincia beneventana, già di origine territoriale nel Sannio, una popolazione che storicamente ha un aspetto di radice molto forte. Ne parleremo poi con le protagoniste che ho contattato per dare un approfondimento a una delle mostre più belle che io abbia visto nel 2024. Siamo in una sede espositiva che già conosciamo, che ha trovato protagonista Marino Marini per quanto riguarda la scultura. Il contemporaneo procede con il dialogo attraverso l'arte di Palladino, un artista che ha con Bologna anche delle attinenze che scopriremo facendo dialogo con Silvia Evangelisti, che è la curatrice, e con Paola Pizzighini Benelli, la presidentessa della fondazione di Palazzo Boncompagni. È un'esposizione, non vi dico la durata perché potrebbero esserci sorprese, belle sorprese, in quanto sta avendo un ritorno molto interessante. La particolarità è l'intensità della forza, la storia, il presente e soprattutto l'emozione di intensità per arrivare a essere una mostra veramente tutti i tempi. Cominciamo con un identikit dedicato a Mimmo Palladino con la curatrice Silvia Evangelisti. Dunque, Mimmo Palladino è un artista italiano tra i più conosciuti internazionalmente, ha 75 anni, quindi è relativamente giovane ma non esordiente, e quindi ha una storia molto ampia e molto interessante. La sua partenza, diciamo, è quando insieme a Francesco Clemente, Sandro Chia, Enzo Cucchi e Nicola De Maria fece parte del gruppo che Achille Bonitoliva chiamò come transavanguardia nella seconda metà degli anni 70. Quello è stato l'inizio, che era la transavanguardia, faceva parte di quel momento in cui gli artisti reagirono in qualche modo al troppo insistente concettualismo, che in arte significa abbandonare il lavoro delle mani, il lavoro diretto, per invece valutare, sopravvalutare o valutare il progetto, il pensiero dell'arte, quindi molto più teorico, molto più difficile anche come approccio per il pubblico. E a un certo punto gli artisti si sono sentiti con la necessità di sporcarsi le mani con i colori o con la creta o con la scultura. Ecco, Mimmo Palladino esordisce nel panorama dell'arte internazionale proprio nel gruppo di Achille Bonitoliva della Transavanguardia. Ha una serie di riconoscimenti importanti al Biennale nel 1988 e poi ancora. Sviluppa come tutti i protagonisti di questo gruppo, sviluppa una sua personale concezione dell'arte, un suo personalissimo rapporto con l'arte, e soprattutto dagli anni 80 lui comincia a sperimentare la scultura, perché appunto prima era il ritorno alla pittura a Transavanguardia. Comincia a sperimentare la scultura, comincia a frequentare anche linguaggi creativi diversi, come la scenografia, come la regia cinematografica. Suoi film sono particolari. Quello che il primo che fu presentato a Venezia nel 2007 si chiamava Chisciotte ed era una rivisitazione un po' strampalata, geniale e molto poetica del Don Chisciotte di Cervantes, dove Sancho Panza era Lucio Dalla e dove Mago Merlino era Enzo Cucchi e Mago Fellino era Alessandro Borgonzoni, quindi e Peppe Servillo come Sancho Panza. Quindi attori, artisti e sceneggiatura, e soprattutto intorno al racconto sempre grandi opere. Queste aperture questa li volevo protagonisti a un approfondimento dedicato ad altri suoni. Poi ho visto la mostra di Mimmo Paladino e ho detto la colonna sonora è Animal Collective. Dal disco Meriwether Post Pavilion, uno dei dischi più belli degli Animal Collective, ma i primi quattro secondo me sono uno più bello dell'altro. Per Domino Record, perché l'attinenza? Beh, l'attinenza è la forza, è l'aspetto evocativo, è l'uso della voce, è la struttura che va da trance avanguardia, esattamente c'è un ritorno a una psicadelia, c'è un ritorno a un dosato uso dell'elettronica, c'è un ritorno anche all'aspetto leggibile. stile, della composizione, ma allo stesso tempo la forza è il filo conduttore di questa struttura di avanguardia, di moderno, di ascolto. La colonna sonora sarà appunto una proposta selezionata dai primi dischi degli Animal Collective, dalla Fat Cat Records per i primi lavori, poi approdano alla Domino. Tornando all'esposizione, ringrazio tantissimo per la prima parte Silvia Evangelisti, che ne è la curatrice. Abbiamo parlato di trans avanguardia, che è andare oltre, ma come, con un dialogo costante nella materia e uno sguardo a determinate caratteristiche che ovviamente sono peculiarità d'artista. Per quanto riguarda poi l'aspetto di dialogo con la sede espositiva, ne parleremo con Paola Pizzighini Benelli, che è la presidentessa di Palazzo Boncompagni, della Fondazione Palazzo Boncompagni, che già abbiamo conosciuto, come vi ho detto, è una sede espositiva che seguiamo. Procediamo quindi con il discorso di dialogo tutti i tempi e in che modo, ovviamente nel mio essere immediato, ho portato la conversazione, il dialogo con la curatrice su un aspetto di classicità. No, non è esatto, anche se ovviamente le attinenze nel dialogo ci sono, però mettiamola in maniera molto più precisa per quanto riguarda il discorso di rapporto tra le epoche. Esatto, sì, più che con una classicità, con un sentimento di arcaicità che gli proviene dalla sua terra. Mimmo è proprio figlio della sua terra, il Sannio, lui è nato a Paduli Beneventano, e i Sanniti sono stati un popolo straordinariamente forte, guerriero, sono quelli che i Romani non sono mai riusciti a conquistare. E quindi c'è un senso molto forte dell'arcaico, ma non dell'arcaico per un ritorno al passato, del nucleo arcaico che noi portiamo con noi da sempre, che l'uomo porta con sé nella storia, e anche di forte sacralità. E questo l'ha messo, secondo me, in un confronto particolarmente felice con gli splendidi spazi di Palazzo Boncompagni. Ci sono sculture, c'è cioè il bellissimo elmo di bronzo che pesa 850 kg ed è di diametro di quasi 2 metri, quindi enorme. E le sculture sono importanti e molto grandi. I cavalli che sono scenograficamente che rendono viva straordinariamente la sala delle udienze papali sono a grandezza naturale praticamente, e quindi sono opere, i dipinti sono dipinti di grandi dimensioni e sono opere che raccontano l'arte di Mimmo Paladino non tanto da un punto di vista, come dire, cronologico, ma lo raccontano dal punto di vista dei temi suoi fondamentali. Tematico, un percorso tematico. Esatto, sì, esattamente. E dei poi temi c'è una fondamentali. Grande forza anche per quanto riguarda l'origine sannita, con l'elmo, con esatto, i cavalli. Infatti quello che le dice, infatti lui viene dal Sannio e questo è potente in lui, è proprio nelle sue radici. Ma poi non so, c'è una saletta dove ci sono le uniche opere di limitate dimensioni, che è la saletta delle Madonne Nere, che è l'ultimo lavoro qua, credo che sia inedito, cioè che sia la prima volta che lo espone, che sono questa serie di 6 Madonne Nere che sono come quelle delle edicole votive per le strade, che sono peraltro, anche noi a San Luca abbiamo una Madonna Nera, quindi che sono il senso primario, archetipico della figura della Madonna, così come era la Grande Madre nell'antichità. I riferimenti sono diversi e vanno in dialogo con la sede espositiva in maniera esatto, molto originale. Io, dottoressa, la ringrazio tantissimo per questa conversazione e appunto ci troveremo per un altro motivo alla rubrica. Molto volentieri, io ringrazio voi. Ringrazio gli ascoltatori se vorranno vedere questa mostra, che è la prima dopo 30 anni di Mimmo Paladino a Bologna. Ecco, a proposito di forza nella voce, di come è stata portata nella scrittura e nella narrazione musicale. Mi pare, ora do un'occhiata, sia ancora per Fat Cat Records, il disco è Sung Tong, Animal Collective, portati come colonna sonora a Mimmo Paladino a Palazzo del Papa, Palazzo Boncompagni, Bologna. C'è un aspetto archetipo in questi suoni che stiamo ascoltando, come l'aspetto archetipo troviamo nell'arte di Paladino. Nella seconda parte della rubrica in mostra avremo in conversazione con Paola Pizzighini Benelli, che è la presidentessa della Fondazione Boncompagni. Intanto vi lascio qualche nota degli Animal Collective, andiamo in pubblicità e si rientra per la rubrica in mostra su Radio Città Fuggita per giovedì 22 febbraio 2024. Like a lemon sun wave. Lui invece, in rientro in diretta per dare una continuità alla colonna sonora, è uno degli elementi degli Animal Collective che da solista ha portato Down There, questo disco che flirta di più con un alternative hip hop, infatti può essere assolutamente inserito in una playlist dedicata all'Anticon Record e non solo. Lui risponde a nome di Avatar, il suo disco Down There che stiamo ascoltando è l'apertura di questa seconda parte per la mostra Palazzo Boncompagni, già protagonista con diversi autori del contemporaneo che ascolteremo nella presentazione curata dalla presidentessa della fondatrice Palazzo Boncompagni, una famiglia con il Papa che poi sarà il protagonista, il Papa bolognese che troviamo anche a troneggiare in Piazza Maggiore per quanto riguarda il cambiamento del calendario, un Papa storico in tutti i sensi e in tutti i tempi. Portiamo quindi questo contributo per corredare la presentazione del protagonista Mimmo Paladino per quanto riguarda il suo arrivo nella città di Bologna. Ah, grazie, la quarta mostra, diciamo che la nostra curatrice Silvia Evangelisti organizza su misura per il palazzo, di valorizzazione, diciamo, del palazzo attraverso l'arte contemporanea. Quindi il primo è stato Pistoletto, il secondo Marino Marini, il terzo Mondino e appunto Paladino ci ha tenuto e ci abbiamo tenuto. Anche io sono stata felicissima proprio per il rapporto che ha con Bologna, perché appunto ha festeggiato il suo 50° anno, il suo compleanno al Mambo, era amico di Lucio Dalla, ha fatto un film con Dalla e Bergonzoni, quindi diciamo che ha sempre avuto Bologna nel cuore. E quindi già che appunto c'era questa occasione di Palazzo Boncompagni, diciamo, si apre all'arte moderna anche per un dialogo, ci sembrava un'occasione grottissima. E oltretutto troviamo un artista eterogeneo tra pittura, scultura, scenografia, tante immagini che si trasformano. Esatto. Sì. Quante opere troviamo in mostra? Una ventina. E la cosa interessante è che per la prima volta abbiamo anche utilizzato il cortile praticamente originario del palazzo, quello da cui hanno comprato i Boncompagni, che poi hanno ampliato il palazzo, e lì c'è l'elmo e poi appunto ha scelto opere tutte, cioè, che aveva già lui però su misura per il palazzo. È bellissima anche quell'elica di alluminio che è proprio piazzata di fronte alla Scala del Vignola, e ancora per la prima volta ha voluto un'opera dentro la Scala del Vignola, e quindi proprio l'ha decisa all'ultimo, quindi la curatrice ha dovuto da un collezionista farsi prestare un'opera, quindi diciamo che è stato veramente coinvolto tutto il palazzo. Repetition, composition, mirrors. Most of all, the world is a place where parts of holes are described within an overarching paradigm of clarity and accuracy. The context of which makes possible an underlying sense of the way it all fits together, despite our collective tendency not to conceive of it as such. But then again, the world without end is a place where souls are combined. With an overbearing feeling of disparity, disorderliness. To ignore it is impossible without getting oneself into all kinds of trouble, despite one's best intentions not to get entangled with it so much. Meanwhile, statues are bleeding green, and others are saying things much better than we ever could, as the quiet suddenly for a loro sono magici, eh. Ho voluto portare una piccola eresia nell'alternative rock degli Animal Collective. Sono le due formazioni che ho seguito di più tra il 2005 e il 2015 nelle loro pubblicazioni, rigorosamente in vinile, perché sono delle opere d'arte le copertine, come opere d'arte tra l'altro protagoniste a Palazzo Boncompagni. Ma per l'aspetto musicale e per dare informazione alle ascoltatrici e agli ascoltatori, come Animal Collective nel mondo dell'alternative rock, per me tutti i tempi la formazione The Books, i libri, The Books. Finally, we opened the box, we couldn't find any rules. Our heads are reeling with the glut of possibilities, contingencies, but with ever increasing faith we decided. In alcuni aspetti più cantautorali, ecco, se vogliamo, ma grandissimo gusto e ricerca. Torniamo in mostra. E il dialogo tra questo aspetto artistico annulla anche le sensazioni di divisione cronologiche, se vogliamo, anzi le avvicina. Le avvicina assolutamente, perché anche appunto i cavalli nella sala delle audizioni del Papa è veramente un'immagine suggestiva e diversa da come l'abbiamo sempre visti, perché di solito i cavalli, le mostre di Paladino con i cavalli erano sempre in spazi aperti, in piazza del Plebiscito a Napoli, piazza dei cavalli a Piacenza, ma in questo luogo chiuso proprio dialogano col palazzo. Sì, tra l'altro Paladino stesso ti dice che i percorsi legati ai cavalli non devono essere motivo di inquietudine, soprattutto se neri, anzi sono motivi di grinta, di forza, di energia. È vero, esattamente. È vero. In virtù di tutto questo, entrando in mostra, abbiamo un percorso, ci può accompagnare in questo percorso? Sì, assolutamente, si entra appunto nella sala delle audizioni del Papa e ci sono questi 13 cavalli. Diciamo che è una vista veramente suggestiva, l'inquietudine di questi cavalli e l'energia che emanano e come colloquiano con gli affreschi e con, diciamo, il cammino cinquecentesco, è veramente si rimane senza fiato. E dopo si prosegue nelle tre salette adiacenti dove ci sono opere pittoriche e una è dedicata alle Madonne e sono tra l'altro Madonne inedite. E poi un'altra, ci sono due quadri iconici di Paladino, uno blu e uno rosso, di cui il blu è l'immagine della mostra, e un altro quadro che, diciamo, è il passaggio dall'arte di Paladino, dall'arte povera alla transavanguardia. E poi chiude diciamo, la terza saletta, un quadro enorme, bellissimo, sempre con una Madonna, ma con una stratificazione di simboli che è tipica di Paladino. Poi si esce e si va nella loggia e qui c'è, diciamo, la grande sorpresa, perché ci sono due guerrieri uno di fronte all'altro e poi davanti alla Magnolia c'è quest'opera che ricorda il Giappone, che si chiama Respiro, che appunto è in onore della prima missione di gesuiti giapponesi dal Papa di tutti i tempi, che è stata da Papa Gregorio XIII. E quindi è veramente suggestiva questi ideogrammi rossi, con ogni ideogramma praticamente una lettera, e leggendolo tutto viene fuori appunto Respiro e occupa tutta la parete, tutto il porticato dove ci sono le colonne. Sì, l'esposizione, tra l'altro, magari do una piccola anticipazione con la nostra emittente, visto l'importanza, anche il richiamo che ha avuto, potrebbe avere un'estensione nei tempi? Sì, infatti, guardi, ce l'ha chiesto proprio Paladino e dopo ce l'ha chiesto anche il Comune, perché c'è il festival Paladino appunto che deve a fine primi di giugno, poi il comune va al festival dei portici e quindi sarebbe bello aderire con anche con la mostra aperta, e quindi dovremmo averla aperta fino al 9 giugno. E questa, quindi dal 7 aprile al 9 giugno, siamo molto contenti, abbiamo grande riscontro, c'è un grande afflusso di persone che continua a venire a visitarla, e è stata una bella soddisfazione. Grazie dottoressa Pizzighini. Grazie a lei. Buona giornata. Anche a lei, grazie mille. Buongiorno, buongiorno. Gregoriano, quello portato da Papa Gregorio XIII, che nel suo pontificato lui nasce Ugo Boncompagni nel palazzo del Papa, diventata sede espositiva. Grazie per tutto quello che sta facendo per la nostra città e non solo, alla figura di Paola Pizzighini Benelli, presidentessa della Fondazione Boncompagni. Quindi che dire, ce ne fossero, perché l'impegno, l'arte, la cultura, una continuità di contenuto di questo valore che diventa qualcosa da non perdere. Abbiamo parlato di due esposizioni, una dedicata alla figura di Mimmo Paladino con i contenuti della transavanguardia, un archetipo di ritorno per rispondere all'eccesso nel concettuale, quindi già questo contenuto è molto da approfondire e interessante. Abbiamo ascoltato una colonna sonora, secondo me, con il meglio dell'alternative rock del contemporaneo, almeno per il mio gusto, tra Animal Collective e qualche incursione dei The Books. Siamo giunti a conclusione ricordando anche la mostra Stregherie via San Felice a Palazzo Pallavicini, quindi pensate che weekend a Bologna nella nostra città, se colleghiamo questi percorsi ce n'è veramente in maniera totale. ben contento di aver portato al Breakfast Club altri contenuti per la rubrica Regola d'Arte insieme a voi ascoltatrici e ascoltatori mattinieri dei 103.1. domani, in maniera assolutamente atipica, andiamo in scena, andremo in scena con un last minute dedicato al deposito delle memorie monumentale la Certosa. Lo faremo con Roberto Martorelli, che questa sera sarà coprotagonista a Palazzo Segni in Strada Maggiore per un incontro, mi pare oggi pomeriggio alle 16:30, perché a breve, imminente, Bologna pittrice, la Bologna nell'Ottocento, una rassegna in cui ovviamente il Breakfast Club e la nostra rubrica mostra seguirà con Radio Città Fujiko in maniera costante. A seguire un centenario, è il centenario della morte del grande Giacomo Puccini. Parleremo anche di opera, Turandot e tanti altri, insomma la Bohème, e non sono esattamente ferrato, ma avrò qualcuno che certamente darà un contenuto più incisivo e competente a proposito della realtà di contenuto operistico. Per oggi è veramente tutto, grazie per l'attenzione, domani in scena a breve di Pè Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro dalle 9:30 alle 10:30 la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali e il Grande Rock con Angela Zocco e Andrea Gozza alla fine della nostra mattinata dalle 10:30 alle 12:30. Termina così la colazione in diretta, con un caloroso abbraccio mi congedo a voi, come dico, servo vostro William Piana. Ciao a tutti, ciao a tutti, a domani puntuali.